I nomi delle cose. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution. Hanging with the e la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Allora, come sempre, prima della trasmissione, per conoscerci, diciamo qualcosa di noi. Il percorso della coordinamento è separatista, perché riteniamo che il separatismo sia uno strumento fondamentale di analisi, di lotta, è una difesa, una zona franca, una garanzia di riconoscimento e una forza. Però allo stesso tempo il percorso della coordinamento si intreccia con tutta una serie di realtà miste e territoriali che hanno esperienze diverse e variegate, perché riteniamo inscindibile l'analisi di genere e di classe e tentiamo di portarla avanti aprendo scenari di comprensione anche con realtà che sono diverse da noi, perché queste ci arricchiscono e perché nessuna sarà libera se tutti e tutte non saranno liberi. Buonasera a tutte le compagne e tutti i compagni che sono in ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. E adesso vogliamo passare alla parte della trasmissione in cui facciamo un commento delle notizie, e quindi adesso volevamo reggervi una notizia insomma abbastanza recente. Palermo, uccisa a coltellate a 17 anni per difendere la sorella dall'ex fidanzato. La sopravvissuta, 18 anni, è in gravi condizioni, ma è riuscita a indicare agli agenti il nome dell'aggressore, il 22enne fermato alla stazione. Anche questa volta l'assassino ha il volto di un ex che non ha voluto rassegnarsi alla fine di una storia d'amore. Anche questa volta i protagonisti della tragedia sono poco più che adolescenti. Carmela Petrucci, con i suoi 17 anni, trucidata a coltellate per difendere la sorella di un anno più grande. Lucia dalla furia omicidia di Samuele Caruso, 23 anni, incapace di accettare il rifiuto della ragazza mai dimenticata. Il giovane ha confessato l'omicidio dopo 3 ore di interrogatorio. È stato un raptus, ho perso la testa, ha detto al PM. Interessava commentare questa notizia, al di là del fatto che è un episodio di una violenza lucida e premeditata portata a termine nei confronti del, come al solito, portata a termine dall'ex nei confronti della ragazza, in questo caso è stata uccisa la sorella che ha voluto difenderla, però perché ci ha colpito in maniera particolare una cosa detta dalla madre del ragazzo. La madre ha difeso il figlio e ha detto: è un bravo ragazzo. Questa frase, al di là dello sconcerto che può provocare nelle donne e in tutte le persone, apre degli scenari di analisi proprio sul ruolo delle donne. Cioè, spessissimo le donne sono quelle che trasmettono più fortemente i valori dominanti e che perpetuano i ruoli. E anche nella seconda parte della trasmissione in realtà poi faremo un'analisi un po' specifica di quello che sono i ruoli ovviamente e come vengono veicolati dalla società. E il problema è che per esempio, per quanto riguarda l'educazione, sono spesso le donne ad occuparsi dell'educazione dei propri figli, l'educazione a scuola e quant'altro. E sono proprio esse che in realtà veicolano questa violenza, veicolano la giustificazione, danno dei ruoli ovviamente impostati al maschio e alla femmina, e quindi ovviamente le bambine vengono cresciute dovendo giocare con le bambole e dovendo pensare alla cucina, e i maschietti invece possono pensare di essere completamente giustificati dal fatto semplicemente di essere maschi per poter fare qualsiasi cosa loro vogliano. Allora, fa particolarmente impressione che sia una madre a dire questa cosa, quindi una donna, non tanto perché difende in automatico il figlio, quanto perché ci rendiamo conto che ha introiettato in maniera fortissima quelli che sono i valori patriarcali. Tant'è vero che in ambiti come la famiglia o anche come la scuola, di cui parleremo dopo, la presenza delle donne e il peso delle donne è molto importante. Nella famiglia sono al 50%, nel senso che c'è una componente maschile e una componente femminile in quella che è la famiglia considerata tradizionale. E nella scuola abbiamo gli ultimi dati che parlano addirittura dell'87% di presenza femminile. Allora, ci chiediamo come mai, cioè è una domanda che noi facciamo a noi stesse, ma la risposta è anche abbastanza semplice: come mai i valori patriarcali vengono veicolati in maniera così forte nella famiglia e nella scuola? And how, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Send out the pine, you know how I feel. C'è una modalità con cui il sistema patriarcale, la società patriarcale agisce nei confronti delle donne. Ed è come se la donna dalla nascita avesse inserito un file che la porta a comportarsi in un certo modo per tutta la durata della sua vita, e questo tipo di comportamento nella maggior parte dei casi, che è funzionale al sistema, è inconsapevole. Quindi è tanto più importante che le donne prendano coscienza di genere. Tant'è vero che cosa succede? Che in tantissimi casi noi pensiamo di essere libere, di comportarci secondo i nostri desideri, di comportarci secondo le nostre attese, e invece le attese sono indotte, i desideri sono precostituiti, e noi non facciamo altro che avere una coscienza di noi illusoria, è un'illusione della nostra libertà. In a ghetto, the close of your day. A new front porch, you hear the sound of a jukebox from a neighbor. When the kid breaks a window pane, and at night you may be wakened by the sound. Un altro punto che volevamo toccare rispetto ovviamente a una situazione di violenza qual è stata quella di Palermo, è proprio che anche nei quotidiani che ne hanno parlato e comunque anche chi ha fatto le indagini, l'attenzione è stata posta ovviamente su il raptus che questo ragazzo ha compiuto. Noi sappiamo bene, l'abbiamo già detto insomma nelle precedenti trasmissioni, che non crediamo che la violenza sia un sintomo di raptus, non sia brutalità, non sia animalità maschile, ma sia in realtà congenita ed endemica del nostro sistema, della nostra società. E questo per ricollegarci anche al fatto che la violenza è stata sicuramente fatta da questo ragazzo che ha coltellato e ha provato a uccidere entrambe le due sorelle, e anzi questa ragazza di 17 anni ha avuto anche il coraggio comunque di avere una reazione contro una violenza che stava per uccidere sua sorella, ma la doppia violenza che queste ragazze hanno subito è stata quella sicuramente, come al solito, dei media, che non hanno perso tempo a giustificare ovviamente questo ragazzo attraverso appunto l'animalità della sua azione, e ovviamente dando comunque la possibilità di giustificare attraverso ovviamente l'opinione di familiari, l'opinione di vicini di casa. Questo avviene in tante violenze che sono state agite ovviamente negli anni precedenti, i telegiornali, i quotidiani ovviamente, invece che accusare il violentatore e lo stupratore, hanno bisogno di fare notizia. E notizia come la si fa? La si fa ovviamente andando a fare gossip all'interno della città in cui è successo la violenza, la si fa dicendo che la mamma l'ha cresciuto tanto bene, come se questo fosse il problema. Il problema è che non è l'amore che una madre può mettere nel crescere un figlio, ma è come questa madre educa il figlio. Se non vogliamo ovviamente entrare nello specifico, però l'educazione è filtrata dalle donne, perché comunque questa società è ancora legata a un'educazione che viene portata avanti solo dalle donne, il lavoro di cura è fatto dalle donne, e noi veniamo cresciute da tutte le istituzioni per essere pronte a questo ruolo di madri, educatrici, di persone che cureranno tutte le generazioni future, e quindi noi siamo profondamente convinte che per rompere anche questo sistema di violenze bisogna essere noi stesse, tutte quante, a dare una reazione forte, a dare un cambiamento importante anche all'approccio e al tipo di educazione che si danno. Questo perché non vogliamo ribadire che essere femministe non è essere semplicemente bacchettone o quelle che rompono su un linguaggio, che rompono campano su un atteggiamento, ma è semplicemente un'ideologia, una coscienza che è politica, è sociale, è culturale e dovrebbe essere pregnante in ogni nostra azione politica, in nostra qualsiasi azione giornaliera e quotidiana, e solo in questo modo in realtà si può evitare che si subisca violenza. And the birds cease to sing when you rise. Ride easy, your fairy stallion you have mounted. Take care how you fly, my precious. E quanto sia strutturale l'oppressione di genere e quanto questa struttura sia parte integrante dei comportamenti delle donne, che le donne esprimono nella vita, ce lo dice anche un'altra cosa. Per esempio, di fronte alle affermazioni così terribili della madre, cioè quando la madre dice è un bravo ragazzo, è chiaro che lei fa una violenza ulteriore aggiunta alla violenza che ha fatto il figlio, perché è come un difendere tutta una struttura patriarcale che si portano dietro le donne da secoli. Però molte donne di fronte a un'affermazione di questo tipo se ne rendono conto, no? Cioè fanno un salto indietro e dicono è un'affermazione dovuta al ruolo, è un'affermazione dovuta all'educazione che è stata imposta, che la madre si porta dietro, alla difesa di tutta una serie di valori sociali. E quindi sono molte le donne che riconoscono in questa affermazione la struttura patriarcale della società. Però quando invece sempre delle donne agiscono violenza in carriera, in posizione di potere, magari in divisa, e fanno delle affermazioni o delle scelte gravi, di grande violenza, di grande prevaricazione, derivanti proprio dall'aver fatto propria la perpetuazione dei ruoli e dell'oppressione maschile, e queste non vengono riconosciute allo stesso modo, non vengono riconosciute immediatamente, non vengono addirittura riconosciute quasi per niente dalla stragrande maggioranza delle donne. E questa è una cosa molto importante, perché ci dovrebbe far riflettere sulla necessità di fare chiarezza, nonostante tutte le donne appartengano a un genere oppresso, sulle scelte di campo che però tante donne fanno all'interno della struttura di questa società, e quanto sono il loro agire, le loro scelte, le loro determinazioni, quanto sono funzionali alla perpetuazione dell'oppressione delle altre donne. Tomorrow is my time to receive without giving. Make life worth the living. Now it's my life I'm living, and my only concern for tomorrow is my turn. Whenever summer is gone, there's another to come. You can't stop years drifting by, even if you want to try. Though time may help you forget all that has happened before, but honey, it's too late to regret. What is gone will be no more. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn to receive without giving, to make life worth the living. Now it's my life I'm living, and my only concern. Tomorrow. Adesso la parentesi di Elisabetta. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Violenza, non violenza. È in atto una semplificazione voluta e fuorviante dei termini violenza e non violenza, che sono diventati metaconcetti privi di qualificazione e specificazione. Ai fini di queste note conviene dare una definizione stretta di violenza. Si intende per violenza l'atto o l'insieme di atti con cui un soggetto privato, sociale, istituzionale interviene nella possibilità di un altro soggetto, anche questo privato, sociale, politico, impedendogli un comportamento spontaneamente realizzabile ed imponendogli un ruolo e una collocazione. Dalla definizione di violenza nasce la correlazione tra la stessa e la forza che permette alla prima di realizzarsi. In questa società la legittimità dei mezzi garantisce la giustezza dei fini. La legalità e legittimità riconosciuta, la violenza legale è pertanto l'unica violenza legittima. Le elaborazioni teoriche e le campagne mediatiche sul non uso della violenza hanno come obiettivo esclusivamente i destinatari della violenza stessa, e chi le fa è consapevole dei rapporti di forza e di chi esercita la violenza in regime di monopolio. Infatti la violenza viene praticata in e nei confronti di un'area sociale che non coincide con quella dei detentori del potere, e lo sforzo è tutto teso affinché questo uso della forza e i relativi comportamenti violenti siano accettati e interiorizzati nel costume dei e delle più. Quando in maniera occasionale gli oppressi e le oppresse la manifestano, vanno incontro a conseguenze molto severe, senza intaccare minimamente l'ordine costituito. L'iperborghesia ha dichiarato guerra ai cittadini e alle cittadine di questo paese e ai popoli tutti, e come quando si va in guerra ha chiamato alla mobilitazione. Questo è il senso del perché alcune e alcuni si prestano a confondere l'aggredito con l'aggressore, l'oppresso con l'oppressore, e a fare l'equazione non omologata uguale violente, che è indirizzata a chi si ribella, ma i veri destinatari sono gli oppressi e le oppresse tutte. I teorici della non violenza il nemico lo generano all'interno degli oppressi e secernono ogni sorta di metastasi disumana, dove la non violenza diventa la violenza di un sistema che perseguita ogni forma di singolarità, che vieta il conflitto, che lavora per instaurare un mondo che omette ogni differente ordine del corpo, del sesso, della nascita, della morte. È una violenza virale che tende a distruggere a poco tutte le nostre immunità e le nostre capacità di resistenza. L'etichetta di violenza politica non è altro che uno strumento per delegittimare segmenti della società e movimenti e le loro rivendicazioni. Attraverso la riformulazione interessata del tema violenza-non violenza si rimuovono le cause di fondo dell'effettiva povertà economica, culturale e politica in cui oggi versa la quasi totalità delle persone, logorate politicamente e socialmente da decenni di riforme neoliberiste, suscitando al loro interno artificialmente linee di frattura che rendono ancora più ardua la conquista collettiva di un futuro migliore. Paradossalmente, il richiamo a prescindere alla non violenza e la condanna comunque della violenza contribuiscono da una parte all'abolizione di tutte le leggi, tranne quella del più forte, e dall'altra distruggono i simboli che sono dell'essere umano nel suo percorso sociale, in particolare quelli legati alla lotta di classe e alle lotte di liberazione. Gli esseri umani devono sbarazzarsi di tutto quello che di più culturale e simbolico che un tempo garantiva i loro rapporti. Sono spinti a godere senza desiderare. La sola salvezza possibile si trova nelle merci. Distrutte tutte le connotazioni identitarie, non esisterebbero più classi, generi, etnie, oppressi e oppressori. È chiaro allora che la teoria della non violenza si risolve in una riconfigurazione di elementi e nella soppressione dei simboli e delle modalità con cui il soggetto si esprime. Di mira non è più solo il corpo da assoggettare, ma anche la mente. La base di ogni dominio è il desiderio di questo, dell'assenza di una controparte. E questo è il senso dell'ossessione delle manifestazioni non violente, per cui si dà per scontato che non si otterrà mai niente, ma soprattutto, ed è l'aspetto più grave, che se si dovesse ottenere qualche cosa è un dono unilaterale e in definitiva un atto di potere. È l'impero del bene, la violenza del bene, che sta per l'appunto in questo dare unilaterale, occupando la posizione di Dio o del padrone, che fa salva la vita dello schiavo in cambio del suo lavoro. Qui entra in gioco la teoria della non violenza, che deve rimuovere concettualmente l'ipotesi di una reazione violenta a questa vita in cattività, a questa esistenza protetta e avvilita. A noi è riservato il destino che il grande inquisitore prevedeva per le masse addomesticate. La teoria della non violenza è una modalità del marketing, un vero e proprio strumento di controllo sociale, e come il marketing non ha la funzione di liberare il tempo individuale, ma al contrario di controllarlo per massificarlo al massimo. Così la non violenza è lo strumento di una nuova servitù volontaria. Ciao. Just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my reel to reel. There's no comprehending. Just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get and still feel so alone. Burning down in the middle of nowhere, in the middle of the night. We rolled right past that tragedy till we pulled into some roadhouse lights where a local band was playing. Locals are kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. He pins me in a corner, he won't take no. He drags me along the dance floor and there. Adesso nella seconda parte volevamo fare un approfondimento sulla scuola e sui ruoli nella scuola. E si potrebbe cominciare dicendo che l'attacco alla scuola pubblica è a tutto campo. Non solo tagliano i finanziamenti alla scuola per darli alle private, e lì vabbè il governo D'Alema di sinistra è stato il primo in aperta violazione della Costituzione, ma è stato anche il terreno della sperimentazione dei valori neoliberisti con la meritocrazia, con cui facciamo i conti ancora adesso, insomma, le dichiarazioni di questo governo tecnico rispetto a quanto bisogna essere bravi per meritarsi il diritto allo studio, la gerarchia, il ripristino dell'autoritarismo e perfino la delazione ricondotta a valore. E questo per in questo contesto, come nel sociale, vengono riproposti con forza i ruoli maschili e femminili, e vengono riproposti sia dalla destra tradizionale ma anche dalla socialdemocrazia detta di sinistra, con sereno rapporto tra i sessi, con l'abolizione dello stato sociale, ma anche nella scuola passano questi discorsi, anzi proprio nella scuola in realtà vengono veicolati, perché pur difendendo la spada tratta noi siamo consapevoli che viene usata come catena di trasmissione dei valori dominanti. Questo per introdurre cosa? Oggi in radio abbiamo una compagna studentessa del Mamiani e volevamo intanto, prima di farle delle domande, insomma, chiedendole appunto qual è il rapporto tra femminismo, ruoli, scuola, come viene vissuto comunque dalle studentesse questo rapporto, e volevamo leggere appunto dei pezzi di alcuni documenti che appunto introducono le classi differenziate. Quindi vai. Allora, già nel 2009 l'AID Femminismo di Bergamo aveva denunciato che un gruppo di donne che porta avanti i consultori autogestiti, autofinanziati, aveva denunciato che veniva attuata una propaganda mass mediatica sulla proposta dell'educazione differenziata per ragazze e ragazzi. Infatti già nel 2009 c'era stato a Roma in aprile un congresso internazionale sull'educazione differenziata. È chiaro che questo congresso era stato fatto da scuole private, però era una spinta per diciamo far passare tutta una serie di discorsi, e in questo congresso erano stati affrontati dei punti che poi vedremo che verranno ripresi più tardi anche dal MIUR. Allora, ci sono una serie di punti che praticamente ci danno il senso del tipo di scelte che si vorrebbero fare. Il differente stile di apprendimento della ragazza e del ragazzo, il genere come nuova prospettiva dell'agire educativo, buone pratiche didattiche nella scuola differenziata, sfide e prospettive del trattamento per generi nella scuola, il politically correct come sfida pedagogica. Beh, volevamo cominciare a parlare con questa compagna del Mamiani, e una prima domanda che ci era venuta appunto ragionando su questo documento era sicuramente molto complessa, quali sono i ruoli all'interno del movimento studentesco, cioè se sono presenti, quali tipi di ruoli ci sono, e in realtà questo ovviamente introduce anche la partecipazione ovviamente femminile, se possiamo dire, delle ragazze all'interno delle assemblee, dei collettivi, insomma come viene vissuto la differenza tra il genere all'interno della scuola. Ciao a tutte e tutti, io intanto vi volevo ringraziare per avermi invitato qui stasera e per avermi dato questa occasione molto bella. Appunto, come stavi dicendo, è una domanda molto complessa quella sul discorso del movimento studentesco. Fortunatamente, a mio parere, poi anche ovviamente è un giudizio molto legato anche alla mia esperienza e anche alla mia osservazione di esperienze di altri in questi anni all'interno di scuola, visto che sono all'ultimo anno di scuola, è sicuramente un discorso molto positivo per quanto riguarda la partecipazione delle ragazze, delle giovani studentesse, diciamo, all'interno del collettivo, per esempio nella mia scuola, e anche all'interno del movimento studentesco. Ovviamente il problema che io più spesso ho notato, evidenziato proprio a livello del movimento studentesco, è un problema molto di linguaggio, che appunto spesso è uno dei problemi che viene, che è una delle critiche che viene fatta spesso, no? Come si stava dicendo anche prima, alle femministe, a Bacchettone, che stanno sempre a dire che bisogna parlare in un altro modo. Però questa è una cosa che io ho osservato molto anche nella mia esperienza di movimento e anche all'interno dei cortei, anche nella scelta di determinati slogan e di determinati discorsi, che cercano comunque in una sorta di discorso, vabbè, siamo tutti compagni e compagne, siamo tutti insieme, cerchiamo il più possibile di lavorare insieme, quindi sì, nel discorso di linguaggio per esempio si tende spesso appunto a usare il femminile e il maschile, quando poi insulti sessisti e slogan sessisti vengono fatti all'ordine del giorno, e sono la cosa secondo me più difficile da sradicare un po' dal pensiero di tutti, che non è ovviamente solo quello degli studenti, perché anche tra i professori e le professoresse questo è molto diffuso, quindi come potrebbe non esserlo negli studenti, però quello che ho notato molto a livello di movimento studentesco e anche di confronto all'interno delle assemblee è che molto spesso i toni sono duri e forti, magari se si sta discutendo su un argomento, e se sta parlando una ragazza i toni diventano anche marcatamente sessisti, senza magari che i ragazzi stessi o le ragazze stesse che partecipano al dibattito si rendano conto dell'importanza e della gravità di questo fatto. Quindi questo sento che sia una cosa molto importante da sottolineare. Per il resto sicuramente la partecipazione femminile all'interno ad esempio del collettivo del Mamiani e dell'assemblea cittadina degli studenti medi è molto alta fortunatamente, e quello che ho notato io all'interno della mia scuola è stato più che altro un cambiamento in questi 5 anni anche di personalità e un po' di leader all'interno della scuola, che erano prima molto maschili perché c'erano 2 o 3 personaggi proprio di rilievo che però diciamo avevano problema a relazionarsi un po' con tutti all'interno della scuola, non soltanto con le ragazze. L'aspetto positivo appunto è sicuramente che tra i giovani e le giovani studentesse questa differenza viene poco evidenziata nel momento in cui c'è l'impegno a un movimento, a un collettivo e la voglia di fare. Quello che penso io rispetto proprio alle ragazze, alle studentesse mie coetanee è che non c'è molta informazione o molta consapevolezza delle singole ragazze di cosa significhi il femminismo, in quanto appunto mentre dai discorsi che si stavano facendo prima ricordavo mi era venuta in mente una trasmissione molto bella a cui ho partecipato sempre qui 2 anni fa con le femministe e le lesbiche di Radio Onda Rossa, e in cui avevamo proprio parlato di questo a distanza di generazioni molto diverse, molto lontane, di come le diverse generazioni sentono il femminismo. E io forse anche per un tipo di educazione familiare penso di sentirlo da sempre come un qualcosa, come dicevi te prima appunto, di quotidiano, che il femminismo non è appunto una discussione su un termine che viene usato o essere bacchettone in un determinato momento. Il femminismo è proprio come ti poni te tutti i giorni, come esci di casa la mattina e come ti poni verso gli altri. Allora, rispetto proprio a questo problema dei ruoli di cui ci ho parlato, si sente o ci sono problemi? Sì, si sente. Allora, rispetto a questo problema dei ruoli che ci aveva segnalato già l'AIDE Femminismo del 2009 che ci metteva in guardia rispetto a questo tentativo che il neoliberismo sta portando avanti di ridefinizione pesante dei ruoli maschili e femminili, abbiamo trovato un documento che è ancora più preoccupante, perché il MIUR, che sarebbe diciamo l'organo della scuola pubblica, nel 2010 ha sottoscritto un protocollo d'intesa, e questo protocollo d'intesa è stato fatto sul documento di indirizzo sulle diversità di genere sottoscritto da 2 ministre, Gelmini e Carfagna, nel 2011. Allora, questo documento è riferito alla cultura della differenza di genere nella scuola e prevede l'introduzione di una didattica sensibile alle differenze di genere e la promozione della cultura di genere attraverso i 5 ambiti di famiglia: lavoro, donne, scienza, spazio pubblico e gruppi sociali. Allora, oltretutto parla di promuovere nella comunicazione familiare un linguaggio capace di favorire una rappresentazione equilibrata tra il ruolo femminile e quello maschile. Allora, questo è un documento del MIUR fatto diciamo nel 2011, e che già ci fa capire come il discorso iniziato dalle scuole private che hanno fatto da battistrada nel 2009 sulla scuola differenziata stia cominciando a passare e comunque sia stato recepito dalla scuola pubblica. Ma la cosa ancora più grave è questa, che una parte del femminismo, chiamiamolo così, paraistituzionale, socialdemocratico, ultimamente sta dicendo che questo documento del MIUR è stato totalmente ignorato ed è tutto sommato un documento positivo e che la cultura della differenza di genere nella scuola dovrebbe essere promossa. No. Allora, questo che cosa significa? Che al di là delle belle parole, cioè dell'attenzione a una differenza e a una didattica più sensibile, a un linguaggio più sensibile, a una rappresentazione delle donne più sensibile, di fondo c'è sempre questa riproposizione molto pesante dei ruoli e poi anche un'ingerenza pesantissima all'interno del percorso formativo, perché dice al secondo, terzo paragrafo della seconda pagina: non si tratta solo di promuovere la conoscenza e di stimolare la riflessione degli studenti e delle studentesse sui temi dei diritti, della parità e della differenza di genere, ma anche di provvedere alla loro educazione sentimentale e emotiva. Siamo con appunto la studentessa del Mamiani a discutere ovviamente di scuola e differenza di genere e sesso, e le volevamo porre un'altra domanda che pensavamo insomma ci potesse essere utile per comprendere insomma anche le varie problematiche che si sentono nelle scuole. Intanto volevamo sapere a livello di percezione se le studentesse sanno cos'è il femminismo, se insomma si interagiscono con quello che magari può essere anche ovviamente per una questione, come dicevi tu prima, generazionale, anche di educazione delle vostre mamme, insomma delle vostre sorelle, che magari possono avervi dato un'impronta femminista, se questa cosa è presente e cosa intendono le studentesse per questioni di genere? Appunto, come stavo già accennando prima, purtroppo no, ci sono rare le situazioni in cui una ragazza appunto liceale sa realmente cosa significa femminismo o, e soprattutto senta l'importanza di trattare un tema del genere. Ovviamente all'interno dei collettivi, cioè le ragazze più interessate diciamo nel sociale, nei collettivi e nelle assemblee, c'è sempre un po' appunto da appunto le esperienze in radio ad altre esperienze, c'è sempre la voglia di sensibilizzare e anche di discutere insieme di questo tema. Solo che quello che vedo molto io nella mia scuola, tra l'altro una scuola di prestigio in cui raramente ci sono studenti che provengono da zone periferiche di Roma, quindi anche con una certa impronta, quello che vedo io in questi ultimi anni soprattutto è un po' invece, invece di esserci una consapevolezza sulla questione di genere, ad esempio sull'importanza del femminismo oggi, c'è un po' invece lo stereotipo della donna che ci è stato propinato più e più volte in questi ultimi anni. E io quello che cerco di ricordare sempre è che io sono nata nel 1994 e tutte le ragazze che stanno a scuola dopo di me hanno visto, alcune appunto per rare eccezioni, hanno avuto un'educazione familiare, soprattutto dalla componente materna e femminile della propria famiglia, incentrata proprio sulla problematica della questione di genere e sull'insistenza sul femminismo. Invece la maggior parte tendono a riproporre anche quegli stereotipi che hanno visto più e più volte e con cui sono cresciute purtroppo attraverso la televisione, l'idea appunto della ragazza bella e magra con i pantaloni aderentissimi che entrano nel sedere, che questo è il modello più diffuso adesso soprattutto nel tipo di scuola appunto che conosco e che ho vissuto io in questi anni. Quindi appunto il discorso sul femminismo è poco presente in questo senso e c'è poca consapevolezza. E come stavamo dicendo prima, c'è un discorso anche di proposizione e di insistenza sulla diseguaglianza tra i sessi portata avanti dalle ragazze stesse. All'interno della mia scuola, per esempio, io ho vissuto una vicenda personale con un professore che appunto aveva atteggiamenti chiaramente sessisti e dall'altra parte di volgarità verso le ragazze delle sue classi. E un giorno, io mi sono opposta a questi suoi atteggiamenti e da quel giorno ho iniziato a prendere 4 in latino tutte le volte. E le mie compagne di classe mi hanno appoggiato appena il professore è uscito dalla classe e poi hanno continuato ad accettare questo modello in cui un professore che faceva discorsi qualunquisti e marcatamente sessisti e poi un'interrogazione bastava aprirsi un po' alla scollatura e ti metteva un 8 in italiano e latino, e ho visto come le mie compagne di classe accettassero questo sistema e di fatto pur con una appunto partecipazione fittizia a quella che era la mia protesta, che era veramente l'unica voce fuori dal coro, perché i ragazzi non comprendevano, anzi dicevano bene, beate voi che vi mette un voto in più se vi aprite la maglietta, lo farei pure io se ci avessi le tette. Questi erano i discorsi che venivano fatti, e in realtà sotto anche dalle ragazze, sotto questa facciata un po' che forse qualche piccolo rimando, diciamo qualcosa gli è arrivato sull'importanza di difendere e portare avanti la questione del femminismo, però appunto è rimasto molto spesso soltanto una cosa formale, di facciata. Mi ha fatto venire in mente testimonianza che abbiamo avuto a giugno al convegno che abbiamo fatto come coordinamento contro la violenza sulle donne, di una compagna che ci ha raccontato come degli episodi di bullismo, in questo caso non è bullismo ma è comunque un maschilismo e comunque anche violenza di tipo sessista da parte del professore, è stata risolta non con nell'intervento degli psicologi, come di solito succede nelle scuole, non l'intervento di denunce, di presa in carico da parte delle istituzioni, ma con il rapporto diretto con le ragazze e l'impostazione con le ragazze di discorsi di autodifesa, quindi di consapevolezza della propria forza come gruppo corpo, la possibilità di impostare atteggiamenti di presa di posizione sia come voce sia come impostazione del corpo, quindi la capacità di fornire degli strumenti alle ragazze sia individuali che collettivi, ed ha avuto dei risultati molto positivi, non soltanto nei confronti della presa di coscienza delle ragazze e quindi nella loro capacità di autodifendersi, ma anche nei confronti di chi agiva comportamenti sessisti e violenti, perché trovandosi di fronte a una reazione determinata ha fatto immediatamente un passo indietro. E questo noi l'abbiamo recepito come un suggerimento estremamente importante, perché crediamo moltissimo nell'autodifesa e nell'auto-organizzazione delle donne per la risposta a questo tipo di cose. Io, per concludere insomma questa discussione, che ovviamente è una parte del problema, sia per quanto riguarda l'argomento scuola che per quanto riguarda ovviamente l'approccio al femminismo da parte comunque delle ragazze, delle donne in questa società, volevo chiedere al volo due cose molto semplici. Una era, vabbè, se sentivate insomma magari quelle che ritieni ovviamente più sensibili al problema, la necessità di vedersi in situazioni separate tra donne, un po' come ha detto Elisabetta nell'introduzione su che cos'è per noi il separatismo, non intendiamo ovviamente che per forza all'interno delle scuole ci debbano essere riunioni politiche separate tra donne, ma anche momenti di condivisione, di confronto anche su questioni personali, perché insomma ricordiamo che lo slogan insomma degli anni 70 era il personale è politico, e quindi insomma riteniamo che sia importante soprattutto tra donne potersi confrontare, poter parlare, poter riuscire ad avere un rapporto sincero, anche perché insomma, come citava l'esempio appunto di questo esperimento fatto da una compagna in questa scuola, effettivamente quando c'è la condivisione, la collaborazione, l'auto-organizzazione tra le donne, i problemi si riescono a risolvere e ci si riesce a difendere senza dover fare nessun tipo di denuncia. Quindi volevo chiederti appunto se sì, noi anzi più volte abbiamo provato anche all'interno del Mamiani a costituire un collettivo femminista, solo che poi soprattutto gli anni in cui avevamo più voglia, no, di creare questo collettivo, ci rendevamo conto che al collettivo auto-organizzato normale eravamo solo ragazze, e spesso e volentieri si affrontavano anche discorsi importanti in quella sede. Poi appunto quello che noto io per le ragazze della mia scuola in particolare, pur essendo molto scettica, come stavo raccontando prima, soprattutto sulle ragazze più piccole, sicuramente c'è la necessità e c'è la voglia di agire e di unirsi in questo tipo di lotta, e appunto questa serata mi ricorda molto l'esperienza che abbiamo avuto, che ho avuto io con altre quattro ragazze del Mamiani, appunto nella trasmissione che abbiamo fatto con le femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa, che è stato un momento molto bello perché non è stata preparata la trasmissione, ma siamo state il giorno prima della trasmissione 4 ore a parlare tutte insieme, e noi appunto, noi più giovani, eravamo molto stupite della forza di un momento del genere, perché non l'avevamo mai provato prima, e quindi soprattutto due ragazze che hanno partecipato a questa iniziativa, appunto a questa trasmissione di 2 anni fa, si sono unite poi in una sorta di collettivo femminista, diciamo molto poco politicizzato, ma in cui comunque si incontrano spesso e discutono della loro condizione e situazione all'interno delle scuole, all'interno delle società. Quindi io penso che questo sia un discorso fondamentale, appunto il discorso di condivisione e di dialogo tra donne, tra ragazze, è fondamentale. Forse appunto a livello di movimento studentesco, però c'è il dato positivo della grande parità invece che c'è, al di là del discorso che stavo facendo prima sul linguaggio, della grande parità che c'è invece all'interno delle assemblee studentesche, all'interno dei collettivi, che quindi magari non porta a questa come prima come necessità primaria, diciamo, quella di associarsi subito come gruppo femminista. Quindi questo è un dato molto positivo secondo me, però di certo noi tutte appunto nelle nostre scuole sentiamo questa esigenza, e spesso e volentieri la mettiamo in atto anche con iniziative di questo tipo, che secondo me sono fondamentali. Ok, quindi siamo arrivati al termine della trasmissione, diciamo due ultime parole di commento e poi vi salutiamo. Sì, diciamo che siccome questa l'analisi di questa sera voleva essere un piccolo contributo all'analisi sui ruoli all'interno della scuola, pensiamo che ci siano delle modalità da combattere per combattere di conseguenza anche i ruoli, cioè diciamo la lotta contro l'autoritarismo e la gerarchia, oppure il smascherare il politicamente corretto che ha una azione normalizzatrice, riaffermare la centralità del piacere di scoprire e di sapere invece di una didattica impositiva, no? Che è un'occasione di crescita e di arricchimento culturale, secondo noi sicuramente è un modo per gestire anche diversamente il rapporto tra il femminile e il maschile e comunque cercare proprio di scardinare alla base quelle che sono le strutture che lo determinano. In a bed alone, flying high in the sky when you needed my shoulder. You're like a stone hanging around my neck, say. But it looked for a break my back, say. I gotta say what I feel for. E allora siamo arrivate al momento dei saluti, ringraziamo ovviamente questa studentessa che ci ha parlato un po' dei vari problemi della scuola. Grazie a voi, invitatemi quando volete, tanto sono fighissime queste esperienze. Grazie mille, ti inviteremo sicuramente a parlare di nuovo di scuola. E ricordo l'appuntamento a mercoledì prossimo dalle 20 alle 21 su Radio Onda Rossa 87.9 con i nomi delle cose, trasmissione di coordinamento femminista e lesbica. E ricordo anche l'indirizzo di posta coordinamenta con due O @autistiche.org e il nostro blog www.coordinamenta sempre con due O.noblogs.org. Vi saluto al prossimo mercoledì.